Generazione Mobile. Studiare e lavorare nel mondo. Di Sergio Nava. Buongiorno e bentrovati all'appuntamento con Generazione Mobile, studiare e lavorare nel mondo. Ultima puntata oggi del 2017 che farà da volano a una serie di ben tre appuntamenti natalizi. Appuntamenti che ci terranno compagnia dal 23 dicembre al 6 gennaio e che abbiamo appositamente confezionato per voi con tante storie e soprattutto numerosi consigli utili per lavorare e studiare all'estero. Non perdete dunque né la puntata di oggi, che ci trasporterà negli Stati Uniti insegnandoci come una carriera internazionale vada costruita con pazienza, né ovviamente le prossime puntate. Più nel dettaglio vediamo cosa ci offre il menu della prossima mezz'ora. Apriremo con le ultimissime segnalazioni del Sole 24 Ore del lunedì, come sempre in compagnia della collega Francesca Barbieri. Ci sposteremo successivamente negli Stati Uniti per raccontarvi la storia di una giovane manager italiana partita dalla penisola e approdata oltreoceano, non prima però di aver fatto tappa in Australia. Occhio dunque alle dritte che ha in serbo per voi sulla costruzione di una carriera internazionale. Proseguiremo poi con le ultime segnalazioni di Eures, prima di chiudere con un libro che intende essere un manuale di viaggio per aspiranti espatriati, e anche qui ascolteremo i preziosi consigli del suo autore. Prima di entrare nel vivo però, una dritta ve la vogliamo dare noi. Generazione Mobile. Con lo spunto della settimana che ci porta a scoprire le migliori città del mondo dove emigrare per inseguire opportunità professionali. Manama, Praga, Madrid, Kuala Lumpur e Amsterdam. Queste nell'ordine le 5 metropoli globali preferite dagli expats, secondo la classifica stilata dal portale Internations. La capitale del Bahrain è prima sorpresa, grazie anche alla facilità di insediamento per i nuovi arrivati. Al secondo posto la capitale ceca, molto apprezzata per la vita lavorativa. Al terzo posto la capitale iberica, magari non così eccellente per le prospettive di carriera, ma decisamente interessante per la qualità della vita. Prima città italiana Milano, 43esima in classifica. Toolbox. A Toolbox tornano le anticipazioni del Sole 24 Ore del lunedì. Ascoltiamo dunque cosa ci riserva il menù odierno della nostra cassetta degli attrezzi insieme a Francesca Barbieri. Questa settimana dedicheremo un articolo di lavoro e carriere del Sole 24 Ore in edicola lunedì alle opportunità di lavoro alla Banca Centrale Europea. Stabiliamo subito a chi è rivolto a questo bando, questa opportunità, chi si può candidare? Allora, in realtà ci sono diversi, diciamo, requisiti da rispettare. I percorsi di formazione e lavoro alla BCE sono rivolti sia agli studenti del secondo e del terzo anno di un dottorato di ricerca in economia, finanza, statistica, matematica o discipline affini, che abbiano una conoscenza avanzata della lingua inglese e una conoscenza intermedia di almeno un'altra lingua straniera tra quelle ufficiali dell'Unione Europea, oltre ovviamente a avere dimestichezza con l'uso dei principali programmi informatici. Quali sono le condizioni? Si tratta, facci capire bene, di stage piuttosto che di opportunità vere e proprie di lavoro? Allora, ci sono entrambe le possibilità, nel senso che ci sono degli stage estivi all'interno della Banca Centrale Europea che durano 3 mesi e ovviamente prevedono una retribuzione, ma ci sono anche delle vere e proprie assunzioni con dei contratti appunto a tempo determinato, a tempo indeterminato, e queste sono indirizzate a diverse figure. Allora, ho già detto dei dottorati, però ci sono opportunità anche per un test manager, per specialisti nella, diciamo, nel risk management e nella sicurezza informatica, per economisti, per figure senior nell'ambito del facility management. Quindi sostanzialmente si tratta di figure che abbiano, diciamo, già un buon bagaglio di esperienza alle spalle. Le possiamo riassumere dicendo che ci sono opportunità per giuristi, per linguisti, per analisti, per ricercatori, manager ed esperti informatici. Questo è importante da specificare, perché uno dice Banca Centrale Europea, potranno candidarsi solamente economisti o comunque chi ha un background economico-finanziario. Questo, precisiamolo, non è così, ci sono varie posizioni aperte, quindi è il caso di andare a vedere. Sì, è il caso di andare a vedere, chiaramente la concorrenza è agguerrita, quindi è chiaro che insomma bisogna prepararsi a una dura selezione, però appunto non solo, diciamo, dottorati di ricerca, come dicevo prima, questi in realtà vengono inseriti nel periodo estivo per fare un'esperienza, diciamo, diretta, ma ci sono opportunità anche per i laureandi. Questo è importante, quindi se volete ricoprire un ruolo più legato alla ricerca, più legato allo studio, guardate a questi dottorati estivi. Se invece ambite a una carriera professionale vera e propria a Francoforte all'interno della BCE, fate molta attenzione a queste offerte di lavoro. Andiamo a vedere ora, Francesca, insieme a te, entro quando bisogna candidarsi. Allora, ci sono scadenze piuttosto ravvicinate, basta andare comunque sul sito della BCE e consultare la sezione dedicata alle opportunità di lavoro e a seconda delle figure professionali ricercate, diciamo che il termine per candidarsi può essere anche entro la fine di quest'anno o comunque entro il mese di gennaio dell'anno prossimo. Ricordiamo una cosa fondamentale, che tutto questo e altro ancora lo troveremo all'interno dell'inserto Lavoro e Carriere del Sole 24 Ore in edicola tra due giorni, lunedì, quindi tutti i siti internet di riferimento e tutte le modalità le spiegherete all'interno dell'inserto. Ricordiamo il sito di riferimento, ovviamente, ricordiamo anche che ci saranno ulteriori possibilità, vero Francesca? Sì, esatto, perché in questo articolo approfondiamo le possibilità, diciamo, in scadenza appunto a dicembre o a gennaio, però costantemente sul sito della Banca Centrale Europea vengono pubblicate nuove inserzioni, quindi diciamo che non è che la possibilità, diciamo, di lavorare alla BCE si esaurisce qui, anzi basta monitorare il sito e anche, diciamo, nei mesi successivi del nuovo anno sicuramente verranno pubblicate nuove offerte. Il testimone. La testimone della settimana è una vera giramondo. Da Torino a Sydney, prima di approdare negli Stati Uniti, Elisa Fazio, 34 anni, è direttore del brand management di un'azienda del settore tecnologico americano. A Elisa possiamo dire che il coraggio non è mai mancato, almeno leggendo la sua storia. Chi meglio di lei può fornire dritte e consigli utili ad aspiranti professionisti dal profilo globale? Buon pomeriggio, Elisa Fazio. Grazie, ciao. Da Torino a Sydney, da Sydney a Los Angeles, da Los Angeles a Boulder, Colorado, la tua storia, Elisa, si concentra in soli 10 anni, cominciando nel 2007, quando hai fatto la valigia per l'Australia. Ci riassumi in un minuto il tuo percorso, partendo dai tuoi studi? Nel novembre del 2007 ho cercato di inserirmi nel mondo lavorativo in Italia, ma purtroppo la mia laurea in studi internazionali non era molto utile qui a Torino, dove vivevo, e allora, non volendo abbandonare il mio sogno, ho deciso di trasferirmi in Australia. Anche se a malincuore la mia famiglia, cioè, mi ha aiutato a prendere un biglietto e a fare la valigia, e mi hanno anche dato una carta di credito che aveva dei soldi dentro. E cosa hai fatto in Australia in un minuto? Quando sono arrivata a Sydney mi rendo conto che il mio inglese non è molto abbastanza, perché l'accento australiano è fortissimo ed è difficile da capire. Allora all'inizio ho iniziato a fare la cameriera per 3-4 mesi. Lavoravo 6 giorni a settimana perché volevo proprio cercare di capire questo accento. Elisa, come sei finita e cosa hai fatto soprattutto negli Stati Uniti, partendo dall'Australia? Negli Stati Uniti ora sono un direttore del brand management e marketing, e ho iniziato a lavorare nell'agenzia pubblicitaria come una strategist, e poi dall'agenzia pubblicitaria mi sono mossa nel mondo dei prodotti e sono diventata una brand manager. Allora, con te vorrei concentrarmi sui consigli utili ad aspiranti giovani migranti, grazie anche alla tua esperienza. Quello che faremo con te sarà un viaggio nel mondo anglosassone, partendo dall'Australia, tua prima destinazione. Andiamo per punti. Il problema visto, come aggirarlo in Australia? Sì, cioè, in Australia è un po' più semplice, perché l'Australia offre un tipo di visto che si chiama Working Holiday Visa, e tutte le persone che hanno tra i 18 e i 39 anni possono fare l'applicazione per questo visa, e dura 12 mesi e puoi lavorare. Immigrazione australiana comunque è molto controllata, meglio trovarsi in una categoria ricercata dai datori di lavoro australiani? Sì, ci sono delle liste che vengono pubblicate dal governo australiano, e sono liste di categorie di lavoro più ricercate, perché l'Australia ha proprio bisogno di questi lavoratori come nazione. E quindi, se fai parte di queste categorie e dimostri di essere qualificato, puoi applicare per questi tipi di visti. Perché suggerisci di cominciare con una internship quando si parte per l'Australia? Io ho iniziato la mia carriera lavorativa tramite una internship ed è andata molto bene. Alcune internship sono pagate, altre no, ma in qualsiasi caso è un buon investimento per il futuro. Per molte ragioni. La prima, riesci a capire che tipo di lavoro esistono in quella città e cosa ti piace fare. In più conosci altre persone. Molto spesso queste internships diventano lavori a tempo pieno. In più, essendo che tu non vivi lì, avere una compagnia che è locale di quella nazione viene riconosciuta in un modo diverso sul tuo curriculum. Quando si arriva in Australia così lontano, Come superare il primo impatto con un mondo nuovo, trovando casa, costruendosi una nuova rete sociale? Quali sono i tuoi consigli da un punto di vista proprio di networking sociale, se vogliamo? Il networking è molto importante, soprattutto qui negli Stati Uniti. Un po' la cultura, un po' è proprio cioè come mondo lavorativo. Il mio suggerimento è di trovare gruppi su cose che ti interessano e iniziare ad andare a questi meeting dove incontri persone che hanno interessi molto simili. Per esempio, se sei interessato in marketing, vai in meeting che hanno a che fare con marketing. E a dire il vero, tanti lavori si trovano proprio tramite persone che incontri in questi posti. Generazione Mobile si ferma per un attimo, ci sono strade in diretta, noi torniamo subito dopo. Ma ho solo cliccato un link. Un gesto abituale può mettere in ginocchio la tua azienda. Gli attacchi informatici aumentano di ora in ora per numero ed efficacia, minacciando business e continuità operativa. Proteggi il tuo lavoro con Kaspersky Lab, l'azienda di cyber security più premiata al mondo. 400 milioni di utenti hanno già scelto l'affidabilità di Kaspersky. Vai su kaspersky.it o contatta un nostro partner. Generazione Mobile. Studiare e lavorare nel mondo. Bentornati a Generazione Mobile, il programma di Radio 24 che vi fornisce tutti gli strumenti utili per avviare la vostra nuova vita all'estero. Al centro di questa puntata, la storia di Elisa Fazio, 34enne Marketing and Brand Management Director negli Stati Uniti. Un viaggio che abbraccia l'intero pianeta, quello di Elisa, partita da Torino in direzione di Sydney per poi trasferirsi negli Stati Uniti, suo attuale paese di lavoro e residenza. Una valigia sempre pronta all'uso e tanta voglia di fare strada nel mondo anglosassone, la storia di Elisa ci regala consigli utilissimi su come trovare opportunità oltre confine tra Australia e Stati Uniti. Riprendiamo allora l'ascolto. Generazione Mobile. Elisa, chi consigli personalmente un espatrio in Australia? Quali caratteristiche servono per farcela? Devi assolutamente sapere l'inglese. Se non sai l'inglese, ti consiglio di imparare l'inglese prima di spostarti in Australia. In più devi avere una laurea, essere umile e aver voglia di lavorare duro. All'inizio, anche se hai una laurea e pensi di essere un esperto in Italia, a volte non si traduce in Australia, quindi devi avere molta voglia di essere paziente, lavorare duro ed essere umile. Dall'Australia agli Stati Uniti, paese che conosci meglio anche perché è la tua attuale nazione di residenza, come si cerca lavoro negli Stati Uniti? Quali sono i canali migliori per approdare oltreoceano? In tre modi. Il primo, networking, come ho appena parlato. In più ci sono molti website che sono utili per cercare lavoro, LinkedIn, Glassdoor, Monster, Simply Hire sono degli esempi. In più una cosa che secondo me è molto importante è di fare molta ricerca sulle aziende e industrie, quali abilità sono richieste e soprattutto in quali città ci sono più opportunità. Ricerca bene il tipo di azienda e il settore in cui vuoi lavorare. Scrivi nella email che hai inviato a generazionemobile@radio24.it. Quanto conta la geografia nella ricerca di lavoro negli Stati Uniti, Elisa? Come variano le tipologie da stato a stato? Conta tantissimo. Se pensi gli Stati Uniti sono una nazione enorme e vuoi cercare di andare in un posto dove pensi di riuscire a trovare lavoro nel settore in cui sei interessato, no? Quindi di nuovo, ricerca il tipo di compagnia, il settore in cui vuoi lavorare e da lì, parti da lì e poi decidi in che città vuoi stare. Per esempio San Francisco e Silicon Valley sono la mecca della tecnologia, Los Angeles Entertainment, New York, Fashion, Finanze con Wall Street. Ecco, infatti differenziate bene, ogni città fa un po' storia a sé. Tu hai attraversato diverse tipologie di aziende americane, dalle multinazionali più tradizionali, quali la Mattel o la NBC, a quelle più innovative, come Sphero, la tua attuale azienda che produce robot e dove sei brand manager, ricordiamolo. Dove vedi più futuro in termini di carriera e prospettive di lavoro? Nel mio esempio ho imparato cose diverse che mi hanno aiutato in ogni lavoro successivo che ho preso. Ad essere vero, sono felice di aver fatto esperienze di tutti i due tipi. Le compagnie più tradizionali come la Mattel e NBC mi hanno proprio insegnato ad essere più analitica, come strutturare il business e proprio i processi per ottimizzare le risorse. Invece i posti più innovativi, come quando ero nell'agenzia oppure come Sphero, viene insegnato ad essere più imprenditoriale e più creativa. Quindi, a dire il vero, è proprio dipende da che persona sei. Secondo me ci sono cose positive in tutti e due i tipi di compagnie. Domanda flash, e ti chiedo risposta flash sull'impatto col mondo americano. Anche qui, questione affitti, relazioni sociali, costruzione di una nuova vita, quanto è complicato? Gli affitti sono molto costosi, ovviamente dipende in quale città vivi, ma in generale sono molto più costosi che in Italia. Quindi se puoi condividere appartamento o casa con un roommate, soprattutto all'inizio, è meglio. È molto importante vivere in una zona sicura e decente, soprattutto se vivi in città come Los Angeles e New York. Di nuovo il networking è molto importante, e in più in generale capire che la vita negli Stati Uniti, la vita lavorativa negli Stati Uniti è costituita da molte più ore, non ci sono lavori, sai, che inizia alle 8 di mattina e finisce alle 4. Sono tutti molto più lunghi. Chiaro, insomma, bisogna anche adattarsi, è un cambio anche di vita. L'ultima domanda, la nostra domanda di rito, Elisa, prima di salutarti, quale primo consiglio pratico daresti a un giovane coetaneo che sta pensando a un espatrio? Studi inglese, prendi una laurea, sono tutte e due, queste due cose sono necessarie. È molto dura all'inizio, devo proprio ammetterlo, però devi essere positivo, avere un focus, you know, essere umile, cercare di e proprio aver voglia di imparare. Job abroad. E ora spazio alla nostra rubrica Job Abroad sulle migliori opportunità di lavoro all'estero. Tornano le offerte e le iniziative in Europa insieme all'agenzia Eures Italia, che ogni due settimane ci aggiorna sulle migliori opportunità disponibili. Alessia Vetere di Eures Italia. Oggi parliamo di Euradria, la regione che include le province del Friuli Venezia Giulia, in particolare Trieste, Udine, Gorizia e Pordenone, e alcune delle regioni statistiche di Slovenia e Croazia. All'interno di Euradria si è costituita una rete di supporto a lavoratori ed aziende alla ricerca di un'esperienza professionale in mobilità transfrontaliera. Euradria sostiene i lavoratori dunque interessati a spostarsi verso Slovenia e Croazia e viceversa, nel superamento degli ostacoli di natura normativa e sicurezza sociale. In particolare si è strutturata una collaborazione con diverse aziende site sul territorio sloveno e su quello croato nel settore dell'economia, del marketing e dei servizi alle imprese. La collaborazione vede l'opportunità di affrontare esperienze di mobilità professionale attraverso l'utilizzo di diversi tipi di strumenti attualmente disponibili, come quello del tirocinio o evidentemente del rapporto di lavoro. Per chi fosse interessato a capire meglio e ad approfondire le opportunità attualmente in lavorazione, è possibile consultare il sito di Euradria all'indirizzo www.euradria.org o contattare direttamente i partner della rete, sia per ciò che riguarda la parte lavoratore che per quella che riguarda la parte datoriale. All'interno del sito troverete dunque una serie di opportunità di lavoro e di tirocinio, nonché i contatti diretti degli Eures Advisor di riferimento per quest'area. Internet Point. E siamo giunti ad Internet Point, lo spazio di Generazione Mobile dedicato ai siti, ai blog e alle informazioni utili in rete create dagli italiani all'estero. Oggi vi parliamo di un libro, si chiama Manuale di Viaggio ed è un volume che, tra le altre cose, fornisce consigli 2.0 a tutti coloro che intendono programmare un futuro oltre confine. A presentarcelo è il suo autore, Alessandro Ingafu del Monaco. Sentiamo cosa ci ha detto. Il libro è nato dall'esigenza di non disperdere tutte le competenze acquisite nel mio percorso prelavorativo. C'è una parte che tu definisci filosofica all'interno di questo libro, relativa proprio all'espatrio, ma oggi ci concentriamo con te soprattutto su quella pratica, che è la seconda parte. Allora, andando ai consigli 2.0, quelli che tu dai all'interno del volume, partiamo dalla casa. Nel libro ho parlato di moda perché tutti quanti cercano tendenzialmente di andare a vivere negli stessi posti. Ciò determina una difficoltà per trovare alloggio. Purtroppo quando uno arriva all'estero non è così facile come possa sembrare di trovare una casa. In ogni paese ci sono delle dinamiche differenti. Quello che ho cercato di fare è dare degli indirizzi pratici, quindi trovare i siti internet sui quali confrontarsi e mettersi in contatto con coloro che offrono la casa, e poi preparare veramente il lettore a mettersi dentro questa esperienza, che è veramente un lavoro. Insomma, cercare una casa a Parigi o a Londra o a Berlino può essere un vero e proprio lavoro. Abbiamo saputo dire la casa, però appunto il tema fondamentale è quello del lavoro, e qui con te partirei dal curriculum vitae. Quali sono i tuoi consigli 2.0? Per quel che riguarda il curriculum, quello che ho cercato di fare è semplicemente di mettere un insieme di consigli e di spiegare quella che è la difficoltà reale di scrivere un curriculum efficace che possa permettere poi di accedere a un colloquio di lavoro. Dacci una pista. Sicuramente l'impaginazione, l'ariosità del curriculum, che deve essere semplice, dettagliato e catturare direttamente l'attenzione dell'esaminatore, che avrà sicuramente poco tempo per esaminarlo. E poi chiaramente il lavoro. Qui qual è la tua dritta fondamentale? Penso che oggi non bisogna appiattirsi sulle prime esperienze lavorative fatte, ma cercare di avere una prospettiva di lungo respiro. Come trovare lavoro all'estero? Sicuramente ci sono siti internet sui quali le offerte di lavoro sono pubblicate, ma bisogna ovviamente parlare la lingua, avere un minimo di conoscenza del settore nel quale ci si propone, perché altrimenti anche delle competenze senza la lingua straniera potrebbero servire a poco. Ci sono altri consigli pratici 2.0 che tu fornisci all'interno del libro, sempre su come crearsi una nuova vita all'estero? Sì, ci sono degli altri consigli 2.0 riguardo le altre esperienze all'estero che si possono fare in termini di low cost, che sono il partire come ragazzo o ragazza au pair, oppure di integrare prospettive come quella dell'ecovillaggio o del working o del workaway. Per maggiori informazioni, manuale di viaggio per una filosofia di chi parte e di chi è già partito, di Alessandro Ingaffù del Monaco, edizioni Albatros. Chiudiamo la puntata con i nostri input. Per interagire con noi, innanzitutto ci trovate online sul sito di Radio 24, sezione social, su Facebook, nel gruppo Generazione Mobile Radio 24 o nella pagina Generazione Mobile. Siamo presenti anche su LinkedIn, sempre col gruppo Generazione Mobile, e potete pure contribuire al blog di Giovani Talenti all'interno di radio24.it. Internet Pointer resta la vostra rubrica di riferimento. Ogni ultimo sabato del mese portiamo le vostre lettere in onda. Avete domande da porre sull'espatrio? Consigli utili da chiedere? Testimonianze personali? Scriveteci generazionemobile@radio24.it. Infine, la nostra trasmissione vive grazie anche ai nostri testimoni, giovani tra i 18 e i 40 anni che ci raccontano il loro espatrio, le loro esperienze di studio, stage, lavoro, imprenditoria all'estero. Volete portare la vostra testimonianza, raccontare la vostra storia, soprattutto dare consigli utili ai vostri coetanei che in Italia vi ascoltano? Fate parte della nostra Generazione Mobile, scriveteci e porteremo la vostra voce sulle frequenze di Radio 24. Per candidarsi basta scrivere a generazionemobile@radio24.it. Finisce qui questa puntata di Generazione Mobile, aspetto dunque i vostri contributi via email. Vi ricordo infine che questo programma può essere riascoltato sul sito www.radio24.it. Ci sentiamo sabato prossimo alle 13.30, sempre su Radio 24, per la prima di tre puntate speciali natalizie. Il format tradizionale di Generazione Mobile tornerà a partire da sabato 13 gennaio con nuovi testimoni, nuovi strumenti utili per emigrare, nuove offerte di lavoro nel mondo e nuovi siti interessanti da cliccare per pianificare il vostro futuro globale. Per intanto un saluto e un augurio di buona settimana da Sergio Nava.